24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Vogliamo che mantenga i patti, che mantenga l'approvazione della legge elettorale prima di Pasqua. Se sì, sì, se no, arrivederci e grazie. Subito il Brunetta del giorno, l'abbiamo sparato così. Il Brunetta del giorno, avete sentito Brunetta che dice a Pasqua, entro Pasqua l'Italia, oh, sono 10 giorni, a Pasqua la riforma elettorale, io conto, sono 49 settimane, questa è la 49esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Brunetta, a Pasqua, se sì sì, se no, arrivederci. In serata Berlusconi ha chiamato Renzi, gli ha detto tranquillo, andiamo avanti sulle riforme. E quindi boh, non lo so. Comunque buongiorno, ci siamo anche oggi, non ci volevano far iniziare, ma siamo qui un po' in ritardo. Saluto Miriam Lucchetti in redazione, l'alpino Peter Bescapè in regia, il nostro Parlamento che può aprire. Dai, andiamo di corsa come Renzi, corri. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ma avete visto tra l'altro le foto? Voglio subito chiederlo a Vincino. Vincino, buongiorno. Buongiorno. Ciao Vincino. Hai notato, tu che sei un grande osservatore, su Repubblica mettono sempre questa foto di Renzi che è lì che corre, che è vicino a Montecitorio, col piede già in movimento, guarda l'orologio, questa idea futuristica proprio. E 40 persone intorno che corrono con lui. Sì, esatto, che no, corrono. È sempre in movimento, non è mai plastico nelle pose, è sempre dinamico, no? Per queste idee. Assolutamente sì, e poi c'ha queste giacchettine moderne, sì, molto corte, molto cose, no? Versace, spesso. Orribili cappottini, Versace, no, ma orribili. Proprio. Però come dire, è così, è la moda. È la moda. Vabbè. Tempo c'erano quelle giacche che arrivavano quasi sino ai piedi. No? Si muove, vabbè, sì. Sì, i Loden. Si muove anche nelle foto, corre anche nelle foto, sì. Renzi, no? È incredibile. Ma hai visto Berlusconi, questo tu, cioè Berlusconi non si rimangia la parola, si rimangia Brunetta subito, pappa, tanto visto, è poca visto. Cosa, per cui va. No, è poca cosa, no, nel senso, basta. No, è poca cosa nel senso come quantità. Ma avevo capito, appunto, peso, era quello che dicevo. Non so, 25 kg, come un pupo. Fermati. E poi era partito da solo, disperato, proprio una cosa. Fermati. Allora, Vincino, fermati, devo salutare la nostra direttorissima, la nostra. Certo, Aurora Lussana, Aurora Serenissima, non so, sappiamo se sia Serenissima. Va cucinando, non lo so, ce lo dirà più avanti. Aurora, buongiorno, eccoci qua. Sei serenissimi. Serenissima, serena, preoccupata, come sei? No, vabbè, come sempre un caro saluto a te, un caro saluto agli amici di Radio 24. Sono ovviamente serenissima, dopo domenica però in piazza Verona non possiamo tutti che salutare tutti i familiari e tutti coloro che in questo momento devono ricordarsi che ci sono 24 indipendentisti che per le loro opinioni sono in carcere. Per le loro opinioni adesso. Sì, per le loro opinioni. Non c'è nessuna arma. Ci sono queste intercettazioni che erano solo delle provocazioni, volevano forse con qualche gesto dimostrativo ricordare che in Veneto c'è una dittatura fiscale e che forse sì, una dittatura fiscale hanno messo in carcere le idee, questa è la cosa. Sì, ma però l'indipendenza non si arresta. Non si arresta. Tant'è che ieri c'è stata la prima scarcerazione e mi auguro davvero che questa inchiesta della Procura di Brescia sappia invece che dividere tanti movimenti indipendentisti, finalmente unirli. Hanno voluto punire, cioè per questo intento punitivo nei confronti di chi chiede la libertà, ma invece che intimorire chi vuole la libertà, insomma, è veramente a Verona domenica c'era tanta gente. Oh, Vincino, ma senti qua che arriva, no, il tono è affranto, sì, devo dire. Affranto, vabbè. Vabbè, poi io una cosa, adesso ce le andiamo a prendere noi. Cioè, no, ecco, esatto, questa Aurora o li liberano o li liberiamo noi. E dai, su. Come a Casale Monferrato nell'80 quando fu liberato Curcio. No, sì. adesso. Entrarono in cinque il carcere di Casale Monferrato, pim pam pum. No, questo non lo faranno. Cioè non lo farete, non lo farete. Sono persone pacifiche, siamo troppo buoni. Ho capito, ma però, li libereremo noi, cosa vuol dire? No, che comunque quella manifestazione lì, ripeto, è stato un momento di orgoglio veneto indipendentista, e invece che intimorire i popoli del nord, ripeto, ha ridato grande linfa vitale, uno Stato che c'ha paura di una ruspa, ridicolo forse, no? E al di là di qualche cialtronata, qualche aspetto folcloristico che in qualche modo va a inzozzare anche le battaglie di autentico autonomismo che sono fatte da persone. Aurora, ce lo scrive anche uno via SMS, dice, ma fa la voce affranta, Aurora. Fa la voce affranta, sarà affranta. Per questa è una cosa allegra, come il messaggio è passato, passiamo ad altro. Ho capito, è la loro battaglia, Vincino, cosa devi fare? È la loro battaglia del momento. Sì, perché quando comunque conosci i figli di persone che hanno 70 anni, che sono finite in galera, ripeto, per le loro idee, per quello che hanno detto a te, se sentissero sì. quello che dico io al telefono, finisco sulla sedia elettrica. No. Quindi, no, adesso. Ma dai, ma scusa. Se adesso, sentissero quello che dice Vincino, ma pubblicamente qui, a 24 mattino. Di Rocchetta, praticamente, sì. No? Che vuol dire? No, aspetta, che vuol dire collega di Rocchetta? Era in lotta continua, dicono. Ah, grande Rocchetta. Da giovane, Rocchetta da era giovane. Uno storico. Poi Rocchetta ancora non si è fatto tanto carcere quanto me l'ho fatto io, insomma, vabbè. Infatti, no, perché sotto un mese è un'allegria. Vincino, che notoriamente. Vincino, che notoriamente ha raccontato qui essere stato in carcere, eccetera. Appunto, cosa consigli, caro Vincino, da ex carcerato? Di imparare bene a giocare a dama, che questo ti servirà per tutta la vita, di farsi qualche tatuaggio, che poi ti rimane un ricordo per sempre, no? Queste cose qua, insomma, e poi là potrà conoscere tanti extracomunitari in quelle celle strapiene, per cui, come dire, è un'allegria anche, è un bel momento di socializzazione. Sì, purtroppo sto tutti in retroscena, quindi non c'ho proprio voglia di ridere. Vincino è così, Aurora, sai. Però che lui fa... se amare la propria terra, amare il vestito di San Marco, studiare la storia millenaria della Repubblica Serenissima significa dover finire nelle carceri italiane. Forse c'è davvero poco da ridere. Ma oggi sono così. Ragazzi, vabbè, oggi è così. Oggi ce la prendiamo così. Allora. Oggi mi ha preso male. È una giornata pesante questa qua, col povero Casaleggio in ospedale. Attenzione, questa è una notizia, c'è solo su Repubblica, l'ho vista su Repubblica. Vuol dire che gli altri dormono, gli altri giornali non hanno nessuno. Casaleggio, aspetta, fammela dare che la gente non lo sa. Casaleggio scrive Repubblica, è stato ricoverato, è stato operato alla testa, è fuori pericolo, scrive Repubblica, anche se la famiglia ha imposto il silenzio stampa su questa, sulla sua condizione. Ma te benedetti odio. E tra l'altro è proprio singolare che lo scriva, che lo sappia Repubblica, accusata di aver fatto i dossier da Beppe Grillo, eccetera. Quindi voglio dire, però Repubblica ha questa notizia che riguarda la salute del cosiddetto guru del Movimento 5 Stelle. Ovviamente in bocca al lupo. Ma per favore, non lasciate Grillo da solo, guarda, aiuto, Grillo da solo. Casaleggio è un liberale, un moderato, assolutamente. Vabbè, vogliamo sentire anche Renzi che non accetta ultimatum. Renzi, non accettiamo gli ultimatum di nessuno, men che mai di Renato Brunetta. Se decidono di stare al gioco delle riforme, noi ci siamo. Se vogliono sfidarsi, che lo dicano, noi prenderemo atto. Insomma, così risponde a Brunetta. E poi ecco, attenzione, l'incontro con Berlusconi. A me non risultano incontri, però non so, ve l'ha detto Brunetta anche questo? No, però Forza Italia... Vabbè, ce l'ha con Brunetta. Beh, a me non risultano incontri, quindi si incontreranno presto. No, Vincino, funziona. No, non si incontrano prima, non possono incontrarsi. Ma come no? È data anche oggi, abbastanza per scontato dai giornali. Se telefonano, faranno una cosa ma con Skype. Ma ci sono già telefonati con ieri. Skype. Esattamente, con Skype si fanno ora queste cose qua. No, è così, Berlusconi ci teneva, ma lui non può, come dire, in questo momento studenti c'è il 75%. Sì. Grillo il 18% e il resto altri. Così, questa altri. È la situazione attuale. Attuale. E già poi è già, 75% ha già individuato sì, dei voti. Come il 75%? Sì, alle europee. Ma guarda che tra un mese si vota. Poi dopo. La successora, la Boschi, l'hai vista con gli occhiali, la Boschi la così. Quando lui va a comandare l'Europa, Renzi, ci sarà la Boschi in Italia. La Boschi è così. Cosa c'è Aurora? Che è 47 giorni? Che dici? Ah no, mancano 47 giorni al voto. Ah, appunto, cioè Vincino verrà sbugiardato. Ma senti, ma Aurora, ma ve ne frega voi delle riforme? Dai, che lo sai anche te che poi della Lega erano degli autentici riformisti. Guarda che la riforma del 2006, quella lì della devoluzione. Ma vi fate come Berlusconi, se ci davano il potere era tutto a noi. Era fatta bene, era una bella riforma equilibrata, avremmo già avuto il dimezzamento dei parlamentari, un Senato che funzionava. Adesso è tutto un pasticcio, se loro ce l'hanno morto quei professoroni, e allora così un po' da studenti fuori corso hanno abbozzato questa riforma. La faranno perché tanto ormai lui è il bullo compressore, va avanti, non c'ho paura di nessuno. Il bullo compressore, attenzione, questa è bella, Vincino, questa gliela devi rubare, il bullo compressore. Quindi adesso c'è la signoria di Firenze in Italia, chi la pensa diversamente tanto finisce in galera per le sue idee. No. Adesso, oggi è così. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Domani vedremo una bella vignetta sul bullo compressore sul foglio di Vincino. 24 mattino. Volete provare una forte emozione? Togliete l'audio quando i politici parlano in televisione del momento difficile del paese. Potete così leggere attentamente dal loro volto la grande sofferenza che provano quando ci parlano del momento difficile del paese. Riescono addirittura a commuovermi e in certi momenti mi hanno anche fatto piangere. Ecco, io contatto fino a tre, vorrei prendere un forcone per tagliare tutte quelle odiose siglette. O Tosco, che per la città dei media tronfio tembai, così parlando inglese la tua loquela non ti fa manifesto di quella nobile patria natio alla qual forse stai diventando molesto. Mobilità è un elemento imprescindibile in un mercato poco stabile che porta dritto via di qua. Mobilità in un contesto in recessione, saluti la tua posizione e poi sarà quel che sarà. Venezia quando arriva primavera è invasa dalle navi da crociera, e sempre come capita ogni anno le navi le procurano del danno. Sarà perciò che i veneti han pensato di procurarsi qualche carro armato. Ciao me da Felice Poltasso. Eccolo lì, eccolo, grande Felice, hai visto Aurora? Questa è la lettura vera, insomma. Intendo, per le navi. Volevano mandar via le navi. Sì. E dai, facci un sorriso, Aurora, oggi è così, facci un sorriso. finalmente. Mi chiedono, non ho capito se bullo o grullo compressore. No, bullo. Il bullo istituzionale. Il bullo istituzionale. Sì, c'è un po' di bullismo istituzionale, dai. Senti, io non ho visto, mi scrivono tutti questi che dicono, no, io non ho visto il report ieri, ho visto il Milan. Ho visto il Milan vincere, scusate, ma quando c'è la TV di qualità, la TV di qualità per me era Tarabt che la infilava all'angolo. Poi come è andata con Tosi? Che hanno detto che è un criminale dell'Andrangheta? Non lo so, io ero in redazione fino a tardi, il lunedì finisco tardi. Non l'hai visto manco te. Vincino. Però sono arrivata a casa ieri sera, ho mangiato un piatto veneto. Attenzione. Ho visto visto Leonardo da Vinci. Aspetta, aspetta, il piatto, cos'è che hai mangiato ieri? Risi e bisi. Ah, risi e bisi. Eh sì, siamo in primavera e in omaggio. Però aspetta, tra un attimo ci dici la ricetta del giorno. Vincino, tu l'hai visto il report? Ho visto Leonardo da Vinci. Cosa vuol dire? Giovane. Leonardo da Vinci è giovane, che stupendo. Che cioè, ieri c'era Leonardo da Vinci, non lo so, ma dove? Faceva pazzie pazzesche. Ma dove c'era? Sulla Rai? Cos'era? Non te lo dico dove, perché sono in lite con quelli là. Ma perché chi? Appena uno con Sky, appena uno si dimentica mezz'arrata, cominciano a 30 telefonate, 43 messaggi. Vabbè, cosa vuoi fare? Come il cavolo? Ti taglio una gamba. La Rai non ha mai mandato un messaggino. La Rai sono signori. Alla Rai. La Rai, assolutamente. Cioè, tu non paghi mentre arriva il bollettino, ma lo paghi il canone? Sì. Certamente, assolutamente. Allora. Sì, ma non ti manda mai messaggini la Rai, anche quando è in ritardi. Non ti minaccia, non ti telefona e dice i fiori sono già pronti per il suo funerale. Pam. Così fa scalare. Allora subito Miriam Lucchetti mi fa sapere, hai visto Da Vinci Demons su Fox? Sì. Eccola, ma guarda che non sfugge niente a noi, Da Vinci's Demons. E com'è? Cioè, è un Da Vinci che praticamente, per esempio, ha fatto una trasfusione a quel poveretto là, a Lorenzo di Firenze, che stava con la rivolta dei pazzi. Ma una cosa. Ma tu una trasfusione del 1400, sì, che sono morti perché tutti. Sì, Lorenzo stava male, allora Da Vinci, giovane, si è inventato la trasfusione e via, zac, zac, zac, e via. Lorenzo si è rialzato e l'ha cominciato a picchiare perché poi Lorenzo non lo sopportava più, anche Leonardo da Vinci giovane. Va bene, arriva un messaggio di che leggo un po' così, Aurora, mo che la vai a lavorare. E questo sarà l'ermanno questo, non lo so, certo. Non lo so. Allora, cosa cucini questa sera, Aurora? Anzi, cosa stai cucinando adesso per questa sera, che noi abbiamo l'acquolina a quest'ora, Solo piatti veneti. Cioè, ti aveva messo anche il pranzo è servito, dai, forza. Bolliti con salsa pera. Bolliti? Con la salsa pera, con la veronese. Che miseria, io. E com'è fatta questa salsa? Ah, una meraviglia. Ma stai già bollendo adesso la carne? No, adesso non è che stai. Sì, perché serve un'oretta. Ho capito, se anche ora mangi, no? Cioè te la fai a colazione. No, vabbè, c'è il midollo di bue, un po' di pan grattato, però devi lasciarlo su un'oretta, finisco la rassegna stampa, vado a lavorare, stasera c'ho a mangiare pronto. Ah. Un po' di pane vecchio, il midollo fa il brodo di carne di manzo, e un po' di pepe, il parmigiano, e la salsa per il bollito, tipica fantastico. Ricetta veronese. Fantastico, tipica proprio ricetta. Vegetariana, proprio vegana. Ma è vegetariano quello lì? Ma non lo so, quello lì è Vincino. Vegano totale. Vegano. Ma non si può Vincino. Con la carne. Ma Vincino, non ti chiamo più. Questo non me lo dovevi dire, ma cosa vuol dire sei vegano? Eccetto le arancine con la carne, dai. Eccetto un po' che cosa, la mortadella, il prosciutto, cose che uno non sa come sono fatte, poi. Vabbè, ma dai, vegano no, vabbè, no, vabbè. Dai, ho anche ritagliato una sua vignetta spettacolare settimana scorsa. Ecco, vabbè. Vale. Sì, quella del ramo. Hai capito? Non la possiamo raccontare bene. Cioè, me l'avete capita voi, io non me lo ricordo. Sì, tanto chi se ne frega se ci ascolta qua. Se è tagliato una vignetta di Vincino, a noi tanto allora, basta. Aspetta la descrizione, c'è Berlusconi? C'è Berlusconi che ha un coso là così, sul suo coso è seduto Alfano che lo taglia, no? È una scena molto pornografica quasi, abbastanza, è subito Aurora se l'è ritagliata. Mi devo salutare, grazie a Vincino, Aurora Lussana, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492 chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492 e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17, eccoci cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e voi che fate? state facendo colazione, state andando a lavorare, siete già al lavoro, io sposto il microfono qui perché non si sente bene, e allora noi parleremo oggi di che cosa? Beh, insomma, di questo percorso delle riforme un po' accidentato. Avremo con noi il direttore del giornale Alessandro Sallusti, il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. Perché? Perché si sono parlati ieri Renzi e Berlusconi, avete sentito Brunetta dice o entro Pasqua la riforma elettorale oppure sì o no, arrivederci. Berlusconi poi ieri ha sfumato questa posizione molto intransigente di Brunetta, telefonando a Renzi, questo parla delle indiscrezioni. Poi parleremo anche di quello che sono i tagli che arrivano ancora oggi, annunci. Oggi c'è il DEF che viene presentato oggi pomeriggio con conferenza stampa alle 19.30 di Renzi che dice tenetevi liberi, conferenza stampa alle 19.30. Peroni e popcorn e poi vedremo, insomma, di questo parleremo, per esempio con il taglio possibile delle municipalizzate, le società dei comuni. Avremo ospite un economista che ha scritto un libro, Bernardo Bortolotti, alle 8.45 ha scritto un libro su questo, sulla giungla delle società partecipate dal pubblico, dagli enti soprattutto comunali, ma non solo. Questo tra un'ora. Ora i giornali. È martedì 8 aprile, i titoli intanto il Sole apre così, cuneo taglio di 6,6 miliardi, per l'appunto sono i tagli previsti dal DEF, anche per il Corriere della Sera, Renzi vuole tagli per 6 miliardi, mentre tagli a manager pubblici e difesa, questo è il titolo del Messaggero. Come vedete la parola tagli, riecheggia qua e là. La politica invece Repubblica, Berlusconi chiama Renzi, sì alle riforme, mentre per la stampa riforme Berlusconi chiama Renzi. Per il giornale parte l'operazione Bavaglio, 2 giorni all'arresto, la magistratura scheda Berlusconi, tutto pronto per il vertice tra i leader di Forza Italia e Renzi. Mentre per il Fatto Quotidiano sarebbe pronta una quella che il Fatto Quotidiano dà come una furbata di Berlusconi, domiciliari, l'ultima di B, cioè di Berlusconi, si farà operare al menisco per far saltare tutto, rinviare la questione servizi sociali. Mentre gli altri titoli, Libero, le ricette dei lettori per salvare Forza Italia, tutti i consigli a Berlusconi. L'Unità invece, Renzi disarma Forza Italia. Questi alcuni dei titoli, ne vedremo altri. Voglio però partire da una notizia che trovate solo su Repubblica. Ora ovviamente viene messa anche in rete, io l'ho twittata, ma sul cartaceo c'è solo su Repubblica. Riguarda uno dei leader del Movimento 5 Stelle, considerato il guru, insieme a Beppe Grillo, vale a dire Gianroberto Casaleggio, che, come scrive Repubblica, pagina 10, ha vissuto ore di paura, è stato ricoverato e operato alla testa per un edema che è stato tolto. Il leader 5 Stelle si trova al Policlinico di Milano, l'intervento alla testa ora è fuori pericolo, ne scrivono Laura Asnaghi e Matteo Pucciarelli a pagina 10, Gianroberto Casaleggio è ricoverato da sabato scorso al Policlinico di Milano, sottoposto a un intervento chirurgico alla testa, la moglie Sabina Del Monego ha chiesto il silenzio stampa, ma quello che si sa, ovviamente nel riserbo massimo, è che qualche giorno fa si trovava nella villa Marina di Bibbona in provincia di Livorno, ospite di Beppe Grillo, si è sentito dopo ore tra lavoro e svago con strani dolori alla testa, confuso, e così la moglie l'ha accompagnata a uno dei più qualificati centri privati che fanno parte della rete sanitaria lombarda, l'Auxologico. Da lì è entrata subito la situazione più complicata, l'equipe di neurochirurghi, e quindi questo edema alla testa che è stato tolto avrebbe potuto creargli serie conseguenze, ma grazie al tempestivo intervento dei chirurghi è stato risolto il problema. Ora scrive Repubblica, Casaleggio sta meglio, è ricoverato in corsia, la sua presenza in ospedale è protetta dalla massima privacy. Insomma, questa notizia che trovate solo su Repubblica e coinvolge il leader, uno degli ideatori del Movimento 5 Stelle, che si trova in ospedale. Mentre questa notizia invece è solo sul Fatto Quotidiano e riguarda la vicenda delle baby prostitute di Parioli, una vicenda di cui abbiamo parlato spesso. Cosa succede? Ci sono sviluppi nell'inchiesta? Beh, la notizia è questa: così i clienti delle baby squillo rimarranno anonimi. Rita Di Giovacchino le scrive a pagina 8: niente nomi di chi pagava le ragazzine in cambio di sesso. La procura di Roma smentisce tra l'altro i patteggiamenti, ma per ogni imputato è stato aperto un singolo fascicolo. Due sfruttatori, due clienti, un sedicente investigatore privato, un commercialista dedito alla diffusione di filmati pedopornografici, la madre di una delle ragazzine andranno a processo e per quel che ne sappiamo il cerchio si chiude qui. I clienti sono un discorso a sé, scrive Il Fatto. A che serve bruciare dignità e carriere, distruggere la quiete di famiglie? Dicono dalla procura: noi interessa soltanto accertare e perseguire il reato. Così, a parte lo sfortunato, viene definito così, sfortunato Mauro Floriani, il primo a essere bruciato nel falò mediatico in quanto marito di Alessandra Mussolini, e di pochi altri la cui posizione è tutta da vagliare, c'è anche il figlio dell'onorevole Donato Bruno, mettiamoci pure il cuore in pace, scrive Il Fatto. Nessuno forse conoscerà il nome dei 52 clienti sorpresi nello scantinato dei Parioli. Questa è la situazione che potrebbe in qualche modo chiudere, almeno dal punto di vista mediatico, la vicenda. Certo, verrebbe da dire: eh sì, tranne quello là sputtanato, gli altri invece no. Va bene, ma a proposito di vicende che coinvolgono il sesso, beh, sui giornali oggi ci sono dettagli in più che sembrano aggravare la posizione dell'ambasciatore italiano in Turkmenistan, che è stato arrestato, la notizia era ieri sui giornali, nelle Filippine in compagnia di tre minorenni. Sembra aggravarsi la situazione? Beh, intanto la Farnesina ha sospeso questo diplomatico, si tratta di Daniele Bosio, 46 anni, in carriera da 19. Carabelle, regali, carezze, così l'ambasciatore ha abusato di tre bambini. Questo è il titolo a pagina 19 del Corriere della Sera, ne racconta Fiorenza Sarzanini. Quando la polizia di Laguna lo ha portato via, Richard, Loloi e Malig, cioè i tre bambini di 9, 10 e 12 anni, stavano ancora giocando, ma hanno detto agli inquirenti della polizia filippina: quel signore ci ha invitati nella sua stanza e ci ha fatto il bagno nella vasca. Però sembravano contenti perché ci ha regalato vestiti, caramelle e forse, aggiunge il Corriere, anche un po' di soldi. C'è però chi parla anche di materiale compromettente, chi parla di foto di natura pedopornografica. Insomma, è stato trasferito in carcere Daniele Bosio e tra l'altro è stato smantellato per le testimonianze di Catherine Elizabeth Sherry, 36 anni, australiana, vice direttore della Bahai Tulu Yan Foundation, un'organizzazione che si occupa di tutela dell'infanzia e che lo ha proprio avvicinato mentre era in compagnia di tre bambini, perché, dice, vedevo un fare sospetto, continuava ad accarezzarli e ha iniziato a parlare con questi bambini, a chiederle: ma chi fosse quel signore? È nostro daddy, papà. Poi però sono scappati, poi ho deciso allora di chiedere direttamente a lui e lui mi ha risposto che li aveva portati a Manila. E quando gli ho chiesto se i genitori lo sapevano, prima ha detto sì, poi ha ammesso di no, ma mi ha detto che si stavano divertendo. Insomma, questa australiana non ci ha visto chiaro, ha denunciato tutto alle autorità filippine, tanto che Repubblica la mette così a pagina 15: così ho incastrato l'ambasciatore, ecco l'attivista antipedofilia che ha fatto fermare Daniele Bosio nelle Filippine, le ha portati sotto la doccia e ha fatto la doccia con tre bambini offrendo loro dei soldi. Insomma, una situazione che certamente un pochino si complica per il nostro ambasciatore. Va bene, andiamo alla pubblicità e poi quando rientriamo parleremo di questa giornata con il DEF e quindi i tagli, ancora nuove indiscrezioni, dove si devono recuperare questi 6,6 miliardi, è l'obiettivo di Matteo Renzi, e poi il dibattito sulle riforme, la politica con la telefonata che c'è stata ieri in tarda serata tra Renzi e Berlusconi, pare un po' a placare le polemiche, anche perché è la settimana decisiva, in questo caso sì, in cui Berlusconi certamente conoscerà il destino, forse non già giovedì nell'udienza, o forse no, se si rinvia tutto con questa operazione al menisco che incombe. Insomma, come vedete, la situazione è molto fluida, molto fluida. Arino Milan, un giornalista da parte alta della classifica, nonostante il cognome. Infatti. Beh, ma guardi che 3 vittorie di seguito, ripreso il campionato, finalmente, adesso che è ripreso dopo una pausa di 7-8 mesi, potremo tornare in tutto il girone di ritorno a guadagnare e scalare posizioni, forse vinciamo anche lo scudetto. Allora, Renzi intanto ha annunciato, e oggi c'è il DEF, il documento di economia e finanza, quello che programma, insomma, i tagli, il recupero anche della spesa pubblica, il più importante documento che dovrà impostare i prossimi 3 anni di economia e delle finanze dello Stato italiano. Oggi verrà presentato, Renzi e il governo sono al lavoro da 2 giorni, ieri infatti scrivono i giornali una piccola pausa per andare in libreria a comprare il libro di Tremonti e altri saggi politici, sarà contento Giulio Tremonti, e poche dichiarazioni, ed ecco però le indiscrezioni che continuano sui giornali. Renzi avanti sul cuneo, taglio da 6,6 miliardi, questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 ore, le coperture dovrebbero arrivare 5 miliardi dalla spending review, quindi dalla revisione della spesa, 1 miliardo recuperato dalla sanità, ma come anche nei dettagli, scrive il Sole, 400 milioni dagli stipendi dei dirigenti che dovrebbero essere calmierati, c'è questa promessa, nessuno guadagnerà più di Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, questa è l'idea da applicare. E poi ancora 1 miliardo di razionalizzazioni, soprattutto degli acquisti nella sanità, tra 0,5 e 0,8 miliardi come stretta sulle forniture e sui contratti degli enti locali. Altri interventi come incassi IVA da sblocca debiti e rientro dei capitali, 1,5 miliardi, questo dovrebbe essere il tentativo di recupero. Insomma, diciamo che ci sono tutti i dettagli sul Sole di come si vogliono recuperare i soldi. Come detto, gli stipendi dei dirigenti sono molto attenzionati, saranno agganciati al PIL. Palazzo Chigi apripista, questo è ciò che scrive Repubblica con l'articolo di Valentina Conte a pagina 6, legare la retribuzione al PIL oppure alle posizioni riguadagnate dall'Italia nelle classifiche internazionali come il Doing Business, la più citata da Renzi, laddove siamo 65esimi su 189 nazioni. E per iniziare da questo si comincerà proprio da Palazzo Chigi, e dunque dal palazzo che ospita il governo. Tutti dunque a capochino, scrive Repubblica, travolti da impeto patriottico pur di difendere stipendi sin qui d'oro? Non proprio, in realtà a correre quanto il prodotto interno lordo sarà solo quella parte di retribuzione legata al risultato, ovvero il bonus obiettivo, un premio di produttività potremmo dire. Tra l'altro c'è un'intervista che accompagna questo tentativo di calmierare un po' gli stipendi dei burocrati, quella che spesso viene definita dallo stesso Renzi la palude. C'è un'intervista appunto all'ex ministro, ora banchiere, Giarda, che dice, intervistato da Eugenio Corsio su Repubblica, se il governo è forte alla fine i burocrati cederanno. Insomma, torna questo braccio di ferro tra la burocrazia e il governo Renzi. Dirigenti pubblici, scure di Renzi, nessuno prenda più di Napolitano. Questo è anche il titolo a pagina 3 del Messaggero con Alberto Gentili, che inizia con questa battuta. Qui finirà che mi chiameranno Matteo Mani di Forbice. Con questa battuta lasciata cadere tra il vertice con Mister Spending Review Cottarelli e quello con il ministro dell'economia Padoan, Renzi ha dato il segno di una nuova giornata dedicata alla scrittura del DEF, che vedrà la luce questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri convocato ad hoc. Il piano è già definito in un'intervista al quotidiano nazionale di domenica, Sforbicia Italia, quindi tagliare, ma Matteo Mani di Forbice, staremo a vedere. Certo, a proposito di Mani di Forbice, il Corriere della Sera per esempio dà un consiglio a Matteo Renzi in qualche modo, perché raccontare la storia dell'EIPLI, uno degli enti in liquidazione da 35 anni, ma prorogato. Sono quelle storie di burocrazia italiana che davvero fanno un po' accapponare la pelle. Mario Gerevini ne parla, pagina 2 del Corriere. Enti soppressi, storia semiseria dell'EIPLI. In liquidazione da 35 anni, appunto, ma prorogato, è l'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia. Non è soppresso, ma nemmeno pienamente attivo. Così sembra una sorta di limbo istituzionale. Il suo compito è dare soluzioni al problema dell'approvvigionamento idrico. Ecco, appunto, non è soppresso, ma nemmeno pienamente attivo, solo per alcune funzioni comunque importanti come la gestione delle gare d'appalto. Eppure quest'anno sono 35 anni che è stato messo in liquidazione da una legge dello Stato. Lo stesso azionista che però ne proroga l'attività, con poltrone e costi, ovviamente, decreto dopo decreto. Scrive la Corte dei Conti, dal 2002 è attiva Acqua S.p.A., società a capitale pubblico, in cui sono state formalmente, ma non ancora effettivamente, trasferite le funzioni del soppresso EIPLI. Capite? È un ente soppresso. C'è un altro ente a cui sono state formalmente, ma non ancora effettivamente, trasferite le funzioni, eppure l'ente, scrive il Corriere, è talmente vivo che il commissario straordinario lo considera strategico e indispensabile al Mezzogiorno d'Italia. Il commissario Saverio Riccardi, 30.000 euro di compenso, non è un arrivato lì per caso, rappresenta il governo. Si deve concludere che EIPLI è un caso complicato di ente considerato inutile ma indispensabile, seppur in fase di soppressione da 17 anni, con commissari in carica e 140 dipendenti. L'EIPLI tira avanti. Questa è la conclusione dell'articolo del Corriere della sera. Soppresso, ma anche no. E questo per quel che riguarda il DEF, staremo a vedere ovviamente oggi. E poi certo c'è la questione del dibattito sulle riforme. Allora, il dibattito sulle riforme, ieri c'è stato uno scontro da quando Renato Brunetta ha detto entro Pasqua l'Italicum. Sapete che Forza Italia vorrebbe questa inversione, prima l'Italicum e poi la riforma del Senato, entro Pasqua, altrimenti arrivederci. Ecco, messa così è proprio brutale. Allora, scontro aperto sulle riforme, Renzi gela Forza Italia, no a ricatti, avanti anche da soli. Ecco, Renzi risponde: non accettiamo ultimatum da nessuno, men che mai da Brunetta. Se vogliono fare le riforme, bene, se hanno problemi interni se li risolvano tra loro, se non vogliono e si sfilano ce lo dicano e noi ce la facciamo lo stesso. Questo Matteo Renzi. Insomma, lo scontro verbale aumenta da questo punto di vista, tanto che i falchi azzurri sfidano Renzi, titola Libero, Italicum entro Pasqua o addio. A un certo punto, mentre al di là di queste dichiarazioni i pontieri lavorano a un possibile incontro che Renzi ancora ha smentito, dicendo non mi risultano incontri con Silvio Berlusconi, ma in realtà pare che possa esserci. Ieri poi in tarda serata è arrivata la telefonata Berlusconi Premier, una telefonata per rilanciare il patto. Così a pagina 10 del Corriere Paola Di Caro racconta che l'ex cavaliere, dopo essere stato duro nel pomeriggio, aver parlato di riconoscimento delle nostre posizioni o non se ne fa niente, poi in realtà ha sentito Renzi che gli ha ribadito non accettiamo ultimatum, e alla fine l'ex cavaliere, così viene titolato il Corriere della Sera, l'ex cavaliere dice un vertice per i dettagli, ma comunque andiamo avanti sul piano delle riforme. Tra l'altro, in tutto questo c'è un dramma che Repubblica mette a pagina 3, un dramma, un vero e proprio dramma che coinvolge Matteo Renzi. La svolta di Matteo, racconta Goffredo De Marchis, non twitta da 11 giorni. Pagina 3 di Repubblica. Non twitta da 11 giorni. L'ultimo tweet, l'ultimo cinguettio il 27 marzo scorso. Il silenzio su Twitter dura ormai da 11 giorni. Questo è l'inizio dell'articolo di Goffredo De Marchis. Matteo Renzi non ha spento l'inseparabile smartphone, ma non digita i mini messaggi da 140 caratteri dal lontano 27 marzo. Ha deciso di prendersi una pausa. Ci sono altri articoli che ho segnalato per la carta costa, ma questo era davvero non ha stravinto per un soffio, e immaginatevi dunque il gran finale della carta costa. Vabbè, questa comunque è la settimana in cui si deciderà per Berlusconi, i servizi sociali, gli arresti coi domiciliari, insomma una settimana difficile, una settimana complicata. A proposito di difficoltà, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Mauro Meazza, eccoci. Temevo per un attimo che mi facessi gli arresti domiciliari. No, ti ho già mandato, credo. A proposito degli affini dei servizi sociali, credo che di averti già coinvolto. Senti, in questo. Allora, io voglio cominciare dal fondo questa volta, che sono le 24 ore. Ah, perché... dall'Inter iniziamo? No, non capisco neanche questo umorismo per una squadra che comunque resta al di sopra di quella che porta il tuo stesso cognome. Va bene, va bene. Comunque, vorrei segnalarti che proprio l'ultima pagina della sezione di norme e tributi c'è una pagina su un argomento a te caro, il condominio. Sì, ottimo, ecco. Ecco, siccome so che sei forte sul condominio, stai molto studiando. Guarda che noi segnaliamo, sta arrivando, è pronto il decreto per diventare amministratore di condominio. Allora, ci sono tutti i particolari naturalmente su questo decreto, le anticipazioni, te lo dico anche a livello personale, un domani non volessi più fare questo siparietto con me la mattina o insomma queste tue rubrichette, la carta che costa, che non costa, ecco, potresti occuparti, potresti darti a una professione vera, diciamo, sì, quella sì, appunto dell'amministratore di condominio. Beh, non è l'unica, non è l'unica volendo cosa. Far fallire una decina di condomini si può fare, ma no, guarda, poi ti si prepara, leggi bene il Sole 24 Ore, è facile, insomma, c'è dicendo, il codice di condominio, che è facile, è facile. Tra l'altro, guarda, oggi noi diamo anche un altro della serie dei dizionari, questa volta è dedicato a lavorare in proprio, quindi tutte le parole chiave che devi sapere, la partita IVA, l'accesso ai fondi europei e cose di questo tipo, perciò vedi che ti stiamo un po' spianando la strada verso un luminoso futuro, insomma, ma scherzi a parte, insomma. Ah, scherzo, no, perché pensavo fossi già licenziato e me lo volessero comunicare all'azienda in modo un po' edulcorato, comunque... No, sappi che invece il direttore del personale ci ascolta sempre molto attentamente e vorrei sottolineare il molto, molto attentamente. Sono in ginocchio in questo momento, avanti. Perfetto, anche io. Ti voglio anche dire, abbiamo un po' di anticipazioni su Alitalia e Etihad, qui le condizioni sarebbero anche di 3.000 esuberi purtroppo, cioè i signori entrerebbero, però come dire, si sta discutendo anche sulla forza lavoro in modo molto importante, quindi tutte le anticipazioni da Gianni Dragoni. So che di Cuneo, di tagli hai già parlato, quindi sì, è una gran giorno, definitiva. Che battutone. Sappi che l'IVA mostra segni di ripresa. Anche tu hai un futuro, però, guarda che da cabarettista potresti. Sì, da cabarettista mascherato. Sì. L'IVA mostra segni di ripresa, non è una cosa da sottovalutare. Leggi Marco Mobili nelle prime pagine Sole 24 Ore di oggi. Farò, mi raccomando il dizionario e ricordati che domani non c'è il campionato. Sì. Ma ieri sì! Ma è impossibile, era lunedì. Ma è ripreso il campionato dopo mesi di sosta invernale, è una cosa incredibile. Ma non è possibile, ieri era lunedì, adesso non scherziamo. Ma sì, oggi, fidati. Oggi martedì il dizionario per lavorare in proprio con il Sole 24 Ore, domani sempre con il Sole 24 Ore un dossier di 16 pagine sul modello 730. Ottimo. Quindi è la prima di due uscite, la prima domani e la seconda settimana prossima. Comunque, 730. Modello più amato dagli italiani. Amato, insomma, fosse una parola grossa. Diciamo noi diffuso, ne parleremo domani alle 7:40. Volentieri. Vabbè, era una battuta anche questa. Comunque, vabbè. Del 7:30. Va bene, Gianni e Pinotto, vogliamo andare dove? Dove sei tu? Andiamo al traffico. Ecco. A questo punto? Sì, traffico. Sì. Alessandro Milan, il sindaco dell'informazione. Va bene, allora grazie caro ascoltatore. C'è da dire che la settimana, dicevamo, in cui si decide il destino di Berlusconi, anche se il giallo del Fatto Quotidiano, avremo il direttore Antonio Padellaro ospite alle 8:15 insieme al direttore del giornale Sallusti, è questo: domiciliari, l'ultima di Berlusconi, si farà operare al menisco. Pagina 2, poi i dettagli raccontati da Carlo Tecce. Va operato al menisco, la campagna zoppa del condannato. Questo è il titolo. Per i medici il ginocchio continua a dar problemi, in attesa della decisione sulle pene alternative chiede un nuovo incontro con Renzi sulle riforme, ma soprattutto c'è questa ipotesi buttata là dal Fatto Quotidiano: stai a vedere che l'operazione sarà talmente urgente da coincidere con, in questa settimana, con l'udienza e quindi il possibile rinvio. Se non fosse così, come scrive il Corriere con Giuseppe Guastella, pagina 11, appuntamento giovedì ore 17, piano terra del Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo una cinquantina di condannati, il Tribunale di Sorveglianza di Milano esaminerà la richiesta di Berlusconi di affidamento in prova ai servizi sociali, con essa la corposa memoria depositata dai suoi avvocati. L'ex Presidente del Consiglio ha chiesto di poter scontare in affidamento all'ufficio esecuzione penale esterna, in acronimo UEPE, di Milano, l'ufficio che fa capo al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. Ha richiesto dunque di scontare lì l'anno residuo della condanna subita il 1 agosto per frode fiscale nel processo sui diritti televisivi Mediaset. Cosa succede in questo caso? C'è anche un giallo, perché prima dell'eventuale affidamento viene fatto un percorso di recupero con un assistente sociale. Ieri si era diffusa la notizia che c'era già stato un incontro, una presa di contatto con uno di questi operatori, incontro smentito dai vertici del tribunale e dalla stessa difesa di Berlusconi. Ma il titolo di Libero invece è questo: le toghe mandano lo psicologo a Silvio, giovedì l'udienza e il tribunale ha inviato gli esperti per verificare se è pentito, racconta Salvatore Dama. C'è stata invece questa indagine socio-familiare, un viaggio nel cerchio magico dell'ex premier per capire con chi sta ad Arcore, con chi vive, chi sono le persone che frequenta, insomma quella che Berlusconi considera l'umiliazione. Per il giornale l'incubo che arriva è il bavaglio ad persona, ma staremo a vedere. Parleremo anche di questo e dell'accidentato dialogo sulle riforme dalle 8:15. Sallusti e Padellaro con noi. Per la cronaca vi voglio segnalare due belle pagine scritte da Attilio Bolzone e Salvo Palazzolo su Repubblica, pagina 32-33, raccontano la vita in anonimo e blindatissima degli uomini che stanno cercando di scoprire dov'è quello che è ritenuto il numero uno della mafia in questo momento, Matteo Messina Denaro. È la sua ombra da 10 anni, appostato in macchina davanti a un casolare, chiuso in una stanza buia ad ascoltare il respiro dei parenti dell'ultimo imperatore di Cosa Nostra. Matteo, lo chiama così. Di lui ha in mano solo un identikit. A volte la preda si sente lui, ossessionato da un inseguimento infinito. Quest'uomo, un uomo dall'aspetto dimesso, ha la missione di catturare Messina Denaro. Fa parte di una delle 4 squadre che rivoltano la Sicilia in provincia di Trapani, e soprattutto sulle tracce del fantasma. Ogni giorno si ricomincia da capo. Sono due belle pagine, Il cacciatore e Il padrino. Questa battaglia in cui raccontano Bolzoni e Palazzolo, ci sono giorni che si sente soffocare, inseguito dalle sue ossessioni, umiliato dal niente che ha intorno, a volte diffida anche di se stesso, del suo fiuto, della sua testa, e gli viene il dubbio: ma forse la preda qui sono io. 10 anni dopo c'è solo in mano un identikit, l'ultimo, ma è sempre lì, appostato tra gli alberi davanti a un casolare, dentro la sua macchina che procede lentamente nel traffico dietro un'altra macchina, ascolta con le cuffie il respiro della notte e dice: i rumori del sonno ti fanno capire le persone più delle loro parole. Le sue labbra si piegano in un sorriso. È questo uomo che parla con l'aspetto dimesso, anonimo, fa di tutto per passare inosservato: la barba di 2 giorni, occhialini, un pullover a V, una vecchia giacca, non ha nome ovviamente e non ha più il suo nome da quando è alla caccia di Matteo Messina Denaro, e si racconta tutta la storia di questo inseguimento che si spera possa un giorno finire positivamente per lo Stato. Mi ha anche colpito molto questa notizia che viene data dal Corriere della Sera, Gianni Santucci, a pagina 23. È stato fatto da Transparency un questionario, un sondaggio in anonimo tra i calciatori, calciatori di Serie A, anche, anzi no, calciatori di Serie B, 283 calciatori di Serie B hanno risposto in anonimo a un sondaggio, il 20% di loro dice sono sicuro che alcune partite del campionato siano irregolari. Il 50% di loro dice è un rischio concreto che ci sia. I calciatori anonimi confessano le partite truccate sono un problema. Leggete Gianni Santucci, pagina 23 del Corriere. Ogni tanto escono vicende poi di calcio scommesse. E beh, insomma, questo sondaggio che ha garantito l'anonimato ai calciatori fa capire che il problema davvero c'è. Va bene, siamo al momento conclusivo, siamo al momento più atteso per molti, quello della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali con tanto di classifica che io do su Twitter ogni giorno in testa del giornale. E attenzione che alla fine della stagione daremo una coppa, ho deciso questo, la consegneremo al direttore che vincerà. In questo momento tra l'altro in testa proprio Sallusti, che avrebbe alle 8:15. Ebbene, oggi vince La Stampa con Antonella Amapane, che dedica una pagina intera a chi? Ne avrete viste nelle vostre città girare le principesse Pan. Chi sono? Vedo del sì, sento, vi vedo così con le facce, che le labbra, le principesse Pan. Ma come no? Donne dai 30 ai 50 anni che amano tanto i capi cartoon e si vestono con gli zainetti di Hello Kitty, con le loro, con i loro rossetti rosa. 20 anni dopo hanno insomma la sindrome da Peter Pan. Benestanti, belle, alla moda, lanciate sul lavoro e vivono grandi contraddizioni. Si vestono con lo zainetto di Hello Kitty, con le minigonne, gli short, gli abiti attillati, con le trecce, le mollette, ma anche chi se ne frega, ma si vestono come gli pare. Ma scriverne di una pagina delle principesse Pan, quando ne incontro uno ne dico due parole, eh? Va bene. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, parliamo di questo percorso accidentato delle riforme. Parleremo anche alle 8:45 con un economista invece di quello che c'è sul DEF allo studio, cioè il taglio degli enti partecipati dai comuni, per esempio, o comunque partecipati dallo Stato, davvero una giungla sulla quale ora pare voglia battersi l'accetta di Matteo Renzi. Ma parliamo prima di questo percorso accidentato. Insomma, di un premier che dice Matteo Renzi voglia fare le riforme, il Senato, la legge elettorale, domenica il ministro Boschi che dice se c'è Forza Italia bene, se no andiamo avanti lo stesso, ieri Brunetta che risponde entro Pasqua alla legge elettorale, 10 giorni oppure arrivederci, e poi Berlusconi che chiama in serata, ieri in tarda serata, Renzi, e in qualche modo placa la tempesta. D'altronde sono giorni così, un po' convulsi, è una settimana importante, rimane anche il giallo, ma si vedranno Renzi e Berlusconi. Berlusconi pare lo vorrebbe per sentirsi legittimato politicamente in un momento difficile, vale a dire quello in cui questa settimana, giovedì alle 17, c'è l'udienza, non è che decideranno subito giovedì, c'è l'udienza per stabilire se dovrà scontare l'anno di pena agli arresti domiciliari oppure ai servizi sociali. Sempre che tutto non venga rimandato, perché, e io voglio salutare il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, buongiorno direttore. Buongiorno. Sempre che non arrivi un rinvio. Oggi il Fatto Quotidiano titola così: domiciliari, l'ultima di Berlusconi, si farà operare al menisco. Ma lo dite perché lo sapete, lo dite, cioè, si sa che Berlusconi ha problemi al ginocchio, e lo dite perché sospettate che si farà operare proprio, come dire, guarda caso questa settimana? Beh, sì, se l'abbiamo scritto è perché abbiamo avuto notizie precise, diciamo, da chi queste cose le sa, nell'entourage di Berlusconi. Credo che anche gli avvocati ne siano informati, e del resto lui si è fatto ricoverare alcuni giorni fa, questa è una notizia, sì, di dominio pubblico, in una clinica, per alcuni accertamenti su questo ginocchio che effettivamente è malmesso, e adesso sembra che appunto questa operazione al menisco sia necessario. Possa essere addirittura nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni. Vabbè, in insomma, ospedale a San Raffaele. Diciamo che, la coincidenza temporale quantomeno c'è. Sì, allora, voglio salutare il direttore del giornale, Alessandro Sallusti. Buongiorno, direttore, eccoci qua. Buongiorno. Voi invece titolate in prima pagina oggi: parte l'operazione Bavaglio, 2 giorni all'arresto. Allora, intanto però, Sallusti, questa notizia della possibile operazione al ginocchio risulta? Beh, che come diceva il collega, che il ginocchio di Berlusconi insieme al MES non è né un segreto né un'invenzione. Io credo ci sia una anomala coincidenza, ma che non è il ginocchio, ma è il fatto di togliere di mezzo il leader di Forza Italia a 5 giorni dall'inizio della campagna elettorale. Ecco, questo direi che è una coincidenza inquietante per la democrazia. Quella del ginocchio è un fatto tecnico, anche perché oggi un'operazione al menisco credo abbia una decenza di pochi giorni, poche settimane, insomma non credo che non è un intervento a cuore aperto. No, questo sì, però potrebbero essere proprio quei pochi giorni che gli consentono di rinviare giusto per fare la campagna elettorale, ecco. Beh, non sarebbe un insulto alla democrazia fare anche lui che Berlusconi possa fare la campagna elettorale, sarebbe bizzarro l'inverso, onestamente, perché il coimputato di Berlusconi ha l'udienza per i domiciliari fissata tra un anno. Chissà perché a Berlusconi gliela fissano 5 giorni dall'inizio della campagna elettorale. Infatti, è un'altra delle tante anomalie. Questa è una stranezza. Infatti oggi il Corriere scrive che, siccome quando se ne sono accorti, c'è il coimputato di Berlusconi che era stato fissato credo all'anno prossimo, il 2015, in questa udienza sui servizi sociali, se ne sono accorti, e scrive il Corriere, è stata subito, come dire, anticipata al giugno di quest'anno, perché dicevano che un faldone, era finita una carta sotto a un faldone molto lungo. È una vicenda, questo processo è una vicenda tutta fatta di misteri, di cose anomale, di faldoni persi, ritrovati, di testimoni che non sono voluti sentire, insomma è tutta un'anomalia. Vabbè, no, adesso non mettiamo in discussione la sentenza, quella diamola, diamola per data. Uno può avere la sua idea, però se no dobbiamo come dire, fare passi indietro. Diamola per data, nel senso che la sentenza c'è e questo succede. Allora, Padellaro, ma se succedesse questa operazione sarebbe uno scandalo, non sarebbe un'insulta alla democrazia, dice Sallusti, garantire al leader del principale partito di opposizione di fare una campagna elettorale? Ma guardi, io penso questo, che il tribunale di sorveglianza che deve decidere sul destino di Berlusconi abbia un ventaglio di ipotesi a sua disposizione. E credo che sia anche possibile che venga concesso a Berlusconi, se dovesse fare la scelta dei servizi sociali, condiviso ovviamente con il tribunale, di avere quella che lui chiama un'agibilità politica. Si tratta di una materia complicatissima. Non penso che gli sia proibito, per esempio, di fare dei messaggi televisivi. Oppure, credo che per esempio i comizi siano un pochino più complicati. Ho l'impressione che in questo caso un po' di buon senso non guasterebbe, perché effettivamente Berlusconi in questo momento è il leader del terzo o secondo partito italiano, e quindi c'è una campagna elettorale molto importante. Un'ipotesi di cui si parlava, per evitare tutto questo uso politico del povero Berlusconi che non può fare la campagna elettorale, era di rinviare dopo le elezioni europee la decisione sulla... Io penso che questa sarebbe forse la scelta più di buon senso, in modo da evitare qualsiasi anche speculazione, perché è evidente che Berlusconi ha sempre agito sul suo martirio, no? Insomma, il rischio appunto che lui la giri al suo vantaggio. Qualsiasi problema, un mese più, un mese meno, la decisione doveva essere presa da parecchio tempo, si prende alla fine della campagna elettorale. Beh, insomma, è un'apertura dal Fatto Quotidiano, dal direttore del Fatto Quotidiano. Non so, Sallusti spesso viene detto il giornale molto duro, viene accusato di giustizialismo, ovviamente. Padellaro qui si difenderà a dire non è vero, però come giudica Sallusti questa apertura di Padellaro, che dice ma sì, insomma, potrebbe essere di buon senso effettivamente non dare a Berlusconi il pretesto di apparire ancora una volta martire in questa campagna elettorale? Beh, detto da Padellaro, onestamente non mi sorprende, perché insomma Padellaro è una persona seria, appunto, di buon senso, la pensa esattamente all'opposto di me, ma questo non è assolutamente una cosa illegittima. Io credo che noi già siamo passati alla storia per essere il paese che ha, come dire, tentato ed è poi riuscito a togliere di mezzo il leader della maggioranza in carica. Non è mai successo, in altri paesi si è aspettato il fine mandato per processare i premier e i primi ministri. Adesso credo che stiamo rischiando di essere il primo paese occidentale che toglie di mezzo il leader dell'opposizione, che se ci pensiamo è ancora più grave. Cioè, in Sud America, nei regimi sudamericani, i leader dell'opposizione vengono messi in galera con i pretesti più strambi o comunque in questo modo. Dopodiché non è che Berlusconi gioca a fare il martire, Berlusconi è martire, cioè non è che si inventa un processo, si inventa una condanna, si inventa anzi 42 processi, eccetera, eccetera. Quindi metterei un'affermazione. Però l'altra questione è sulla quale invece vorrei chiedere a Padellaro giudizio, è l'ipotesi di un incontro. Scandalizzerebbe l'idea di un incontro? Insomma, Berlusconi è stato incontrato anche dal capo dello Stato, da Giorgio Napolitano. Si è titolato, e anche il Fatto Quotidiano ha detto, un pregiudicato al Quirinale. Ora Renzi potrebbe dire, ma insomma, se lo ha incontrato il capo dello Stato, dicendo, legittimandolo come il leader dell'opposizione, che problemi avrei io, visto che tra l'altro si sono già incontrati, a reincontrarlo? Un'ipotesi di un incontro è allo studio in settimana, Padellaro? Magari incontro per fare cosa? Questa è la domanda. Insomma, l'incontro, appunto, se serve a Berlusconi, come lei diceva, per legittimarsi, ma mi sembra che insomma Renzi in questo momento non abbia interesse, visto che anche lui è in campagna elettorale. Ecco, non dimentichiamoci mai questo elemento, che siamo delle in campagna elettorale, elettorale. È una specie di lente attraverso la quale dobbiamo guardare tutti i comportamenti, una lente deformante. Io non credo che sia necessario un incontro, perché è necessario che Forza Italia, qui ha ragione Renzi, si chiarisca le idee, perché ci sono due linee completamente diverse. La linea Brunetta, che è una linea di molto dura nei confronti di Renzi, piena di ultimatum, addirittura ieri ha detto facciano la legge elettorale prima di Pasqua, la provino, altrimenti insomma chissà cosa può succedere. E poi c'è Verdini che parla di meno rispetto a Brunetta, ma forse agisce di più, perché ha un asse, come si dice in gergo giornalistico, parola orrenda, quasi quanto fibrillazione, sì, sì. So che lei è d'accordo su questo termine. Ecco, c'è comunque un'intesa, mettiamola così, con Renzi, e ho l'impressione che la telefonata ieri sera di Berlusconi abbia in qualche modo avvalorato la linea di Verdini, quindi, perché anche perché Forza Italia non può permettersi di smentire l'accordo del Nazareno. Ecco, l'ultima cosa è questa, ma questo famoso accordo del Nazareno, che cos'è? È un documento? C'è qualcosa di non scritto? Si capisce, pare ci sia qualcosa di scritto. Ogni tanto viene sbandierato come minaccia, lo rendiamo pubblico, ma poi che minaccia sarebbe? Cioè, se è un accordo scritto, non lo so, si faccia sapere. Se non è un accordo scritto, se è scritto e non viene mostrato, c'è scritto qualcosa di così occulto, non so, Sallusti, è scritto o no questo accordo? Ma io immagino sì che qualcosa di scritto, adesso non dico un documento notarile, ma che qualcosa di scritto ci sia. Però faccio osservare che Brunetta non è che dice una stramberia dicendo va approvata prima di Pasqua, anzi, come dire, è più lasco di Renzi, perché Renzi ha detto agli italiani, non a Brunetta o a Berlusconi, che la legge elettorale sarebbe stata prima entro febbraio, poi entro marzo, poi la prima settimana d'aprile. Ecco, allora è Renzi che non sta mantenendo la sua tabella di marcia, siccome non c'è un motivo apparente visibile, perché insomma in un'aula, in un ramo del Parlamento è già stato approvata, basta mandarlo nell'altro e riapprovarla. Mm-hmm. Allora il sospetto che si tratti di una furbata per tenere tutti sulla corda fin dopo le elezioni, per vedere l'effetto che fa nell'urna il fenomeno Renzi, il fenomeno, la scissione di Alfano, Grillo, eccetera, eccetera, per poi modificarla in base al risultato elettorale, beh, questo, a questo punto... La sensazione che dicono tutti è che neanche prima dell'estate verrà approvata questa legge elettorale. La sensazione addirittura dei più maligni è che la riforma del Senato non si farà mai. Ecco, finisco velocissimo dicendo che non sarei così convinto che Berlusconi che telefona a Renzi e che vuole incontrarlo... anche l'inverno addirittura, ma c'è Renzi, nel senso che forse esiste una maggioranza alternativa a quella con Forza Italia sulle riforme numerica. Ma perché, perché Renzi dovrebbe volerlo incontrare? Esattamente per questo motivo, perché un conto è approvare le riforme con una maggioranza numerica mettendo assieme Vendola, i dissidenti del PD, Monti, piccoli partiti, cioè fare un pateracchio di questo genere. Mm. Altro è passare invece alla storia come il grande riformatore, quello che fa le riforme, come ci ha detto negli ultimi mesi, insieme alle forze di opposizione. Dal punto di vista politico sono due cose completamente diverse. Allora, e quindi credo che sia Renzi che in questo momento ha bisogno che Forza Italia non rompa il patto. Insomma, c'è da capire anche chi ha chiamato chi ieri, a questo punto verrebbe da sapere, e soprattutto chi vuole l'incontro con chi, e se mai ci sarà, e se mai ci sarà in questa settimana. Comunque andiamo in pubblicità, entriamo tra un attimo con Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. 24 mattino. Eccoci qui, siamo ancora Alessandro Sallusti del Giornale, direttore, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, a parlare insomma di questo cammino accidentato per le riforme tra Renzi che corre e Berlusconi che ha le prese con i problemi giudiziari da affrontare in settimana. Però Padellaro, non ho capito se l'incontro in sé, al di là del possa servire o non possa servire, è un qualcosa che vi susciterebbe scandalo, come è stato l'incontro di Renzi e di Berlusconi al Quirinale? Ma questo è un discorso che riguarda Renzi, il quale è stato criticato da una parte del Partito Democratico e anche da molti elettori per questo dell'incontro del Nazareno, perché si disse che insomma Renzi non doveva incontrare un pregiudicato qual è Berlusconi. Ora, qui però stiamo parlando di politica. Allora, Renzi ha risposto: ma io devo fare la riforma della legge elettorale del Senato, con chi devo parlare per forza, con qualcuno che ha i voti per farmi approvare questa legge. No, insomma, anche qui mi sembra che non ci sia scandalo su questo. Di altra cosa è, ripeto, in un clima elettorale fa incontrare Berlusconi. Ma ripeto, per fare cosa non si capisce bene, allora acquisterebbe di nuovo il significato di una intesa così tra Renzi e Berlusconi, che non so quanto questi due personaggi possano gradire, perché ripeto, in questo momento la corsa è alle elezioni, quindi bisogna cercare invece di dare una forte identità a quello che si vuole, non a quello che vuole l'avversario. Io vorrei sentire ascoltatori. Ilde dalla provincia di Pavia ci chiama, buongiorno. Buongiorno. Dica. Quello che volevo dire era soltanto che dà fastidio, come persona normale, persona che ascolta la radio, persona che paga le tasse e che se dovesse fare qualcosa di sbagliato venga subito condannata. Berlusconi sono anni ormai che ha tutti questi processi, finalmente condannato, e pretende che venga considerato sempre un cittadino che non ha fatto nulla. Anche i media continuano a trattarlo come una persona normale. Parliamo di un condannato. Sì. Non dovrebbe nemmeno più presentarsi o farsi presentare in politica, deve ritirarsi, è condannato, punto. non dovrebbe, beh, presentarsi non si presenta, non si può candidare, però lei dice non dovrebbe neanche essere, come dire, no, presentabile dal punto di vista politico. Presentabile, ecco. Ma neanche riferito, cioè, beh, insomma, non, parlo... cancellato proprio dalla storia, ecco, lei dice. No, però la cosa interessante che alla quale Sallusti certamente saprà risponderle con la posizione che tiene sempre il giornale, però insomma, l'ascoltatrice ci dice, ma insomma, stiamo parlando di un condannato, in altri paesi non si discuterebbe neanche, però Sallusti non mi dica in altri paesi la magistratura. Capisco che non è comodo dirlo, però no, è un fatto anche quello, in nessun paese la magistratura fa 42 processi a un premier in carica, pieno. Ma comunque nelle parole della signora c'è una parola che tradisce il giudizio, cioè dice finalmente condannato, quasi che, come dire, doveva essere a prescindere condannato, finalmente l'hanno condannato. Beh, forse era convinta, era convinta della colpevolezza di Berlusconi. Ma io non so se la signora ha letto tutte le carte dei processi, perché insomma, per trarre un giudizio di merito bisogna leggere le carte dei processi e bisogna ascoltare anche le ragioni dell'imputato e poi del condannato che reclama la sua innocenza, ma quel finalmente tradisce tutto. Vanifica tutto il discorso. Vabbè, sentirei un auspicio. Sentiamo Angelo da Bergamo. Angelo, buongiorno. Buongiorno, mi deve scusare, io sono un grosso ascoltatore di Radio 24. Sì. Ma quando sentono che ci sono delle persone che per guidare i cavalli o gli asini bisogna mettere sulle bree, in bergamasco si dicono, ma come si fa a continuare? Brunetta ieri dice una cosa, il presidente suo gli dice no, non è vero, mi è piaciuta quella vignetta che avete preparato prima del dolce Dudu, ma adesso basta con Berlusconi, basta, basta, lasciamo perdere, un giorno dico una cosa perché il governo, questo qua non è legittimo a governare, l'altro giorno è abbastanza, ha detto una cosa santa e giusta, Renzi, io vado avanti, se volete mi seguite, se no fate quello che volete. Ieri sera il signor Berlusconi ha telefonato a dire noi siamo pronti a fare queste nostre belle tutte cose, bibim e bibom. Basta, o le fate o andate fuori dalle balle. Scusate, eh. Vabbè, Angelo, la ringrazio, hai capito, Padellaro ha capito la lettura, no, perché giustamente qua ci scervegliamo, i giornali parlano, il dibattito, poi la gente effettivamente è molto stanca, poi è chiaro ci vogliono i numeri, non è che si può sempre ridurre tutto, però la linea di Renzi che corre, andiamo avanti sempre e comunque, Padellaro come la giudica? Beh, la giudico una linea efficace dal punto di vista mediatico, anche dalla convincente per gli elettori che, come diceva lei, sono stanchi di questi balletti continui. La politica italiana è diventata insopportabile perché non si decide nulla, è un continuo rinvio, è un continuo no spaccare il capello in quattro, siamo diventati tutti esperti di tribunali di sorveglianza, insomma, è questo, e Renzi questo lo ha capito perfettamente. Qual è il problema di Renzi? Il problema di Renzi è che dice delle cose molto, molto forti, anche diciamo convincenti dal punto di vista delle parole, e poi non si riesce a capire se tutto questo possa essere tradotto in qualche fatto concreto, lo vedremo, ma che in questo momento Renzi abbia una forte popolarità, d'altra parte il famoso fuori onda di Toti dell'altro giorno, diciamo, come dice, voce dal sen fuggita, lo diceva Berlusconi, è preoccupato perché Renzi rischia di incastrarlo, no? in questa politica andiamo avanti e basta, ecco, queste sono frasi che la gente, diciamo, il cittadino comune prende bene, diciamo, no, ma è chiaro, condivide. È chiaro. No, anche queste foto che lo dovete notare anche da questi piccoli particolari, che ascoltatori, quando leggete i giornali, guardate, Renzi è sempre rappresentato anche in queste fotografie in cui è proteso verso avanti, cioè c'è una che corre, guarda l'orologio, no? E viene sempre, come dire, l'immagine di un Renzi che guarda, va avanti, non si ferma. A questo proposito, io nel ringraziare Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, e Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, do il buongiorno e con lui mi concentrerò dopo il traffico al professor Bernardo Bortolotti, che insegna economia politica a Torino. Buongiorno professore. Buongiorno. Eccoci qua. Allora le chiedo un attimo di pazienza, perché lei ha scritto insieme ad altri un libro dal titolo Comuni S.P.A. Il capitalismo municipale in Italia. È un esperto e ci farà capire dove Renzi potrebbe, forse oggi stesso nel DEF, tagliare in questa giungla di municipalizzate, perché i comuni, gli enti, le regioni, le province in questi anni hanno investito, contrariamente a dove si dovrebbe pensare, insomma, liberalizzare, privatizzare, i comuni hanno investito, risultato mi stiamo perdendo, mi sa, un sacco di soldi. Allora, sarà sulle municipalizzate che si concentrerà nei tagli il DEF di oggi, questo lo scopriremo oggi pomeriggio, ma intanto ne parliamo, come detto, con il professor Bernardo Bortolotti, che oltre che a Torino è direttore anche del Sovereign Investment Lab alla Bocconi. Professor Bortolotti, intanto quante sono queste società che vedono partecipati gli enti pubblici? Buongiorno, sono tantissime. E la cosa più interessante è constatare quanto siano cresciute rapidamente negli ultimi anni. Cioè, mentre noi abbiamo una evoluzione che parte dal centro, quindi l'amministrazione centrale che privatizza, per cui c'è stato in questi ultimi 20 anni un processo di privatizzazione a livello dello Stato centrale molto importante e significativo, quello che abbiamo visto è che nella periferia gli enti locali hanno invece hanno cominciato a entrare in affari aprendo una serie di società, e oggi, secondo l'ultima stima, che non è più una stima perché ormai c'è un obbligo di comunicazione, sono più di 7.000 aziende. 7.000 imprese, certo. Cioè, nel senso, la tendenza che avete notato è che da una parte lo Stato privatizza, invece i comuni hanno questa fregola, questo interesse a creare società, ma questo interesse è un interesse, spesso l'abbiamo detto, per mettere anche consigli di amministrazione con politici trombati, diciamola tutta, professore, o no? Questo è sicuramente un elemento importante. È chiaro che una valvola di sfogo per il politico che non ha avuto successo, quello di finire in qualche consiglio di amministrazione. Ma facciamo un discorso più generale. Noi abbiamo alcune imprese vere, quindi alcune imprese che hanno bilanci in ordine, e poi una marea, circa direi il 40-50% di aziende, che non svolgono alcuna attività di interesse generale, che hanno bilanci in rosso, e questi bilanci in rosso, la cosa più preoccupante, è che stanno trascinando verso il dissesto molti enti locali, molti comuni, ad esempio molti comuni del sud, non facciamo nomi, ma ci sono diversi casi molto seri, molto gravi, di dissesto comunale, immediatamente riferibile a una situazione patrimoniale di bilancio disastrata della partecipata di riferimento. Beh, insomma, voglio entrare nel caso romano, ma anche tanti comuni più piccoli. Quindi il mio suggerimento al Premier, se posso, anche sì, se il professore, anzi, mi rendo conto che... No, lo dica, il professore, è vero, no? È vero, è un professore, ma siccome l'abbiamo chiamata noi, lei può dare il consiglio a Renzi. La benedizione di Milan, se ho la benedizione di Milan, mi permetto di suggerire la massima trasparenza, cioè dare incentivi per fare in modo che ci sia davvero il consolidamento di bilancio del comune, quindi il consolidamento del bilancio delle partecipate all'interno del comune. Sa, come diceva il giudice Brandeis, sì, il sole è il miglior disinfettante, il lampione è il miglior poliziotto. Mettiamo la luce, facciamo luce, andiamo a vedere quali sono i conti dei comuni e come cambiano i conti dei comuni consolidando le perdite. Ma facendo, cioè mettendo anche una regola, cioè laddove c'è una municipalizzata che è in perdita, che si fa? Si chiude, si privatizza, si... Si devono chiudere società in perdita. Si devono chiudere le società che non svolgono servizi di carattere generale. Ci sono una miriade molto interessante che fa anche fare questo viaggio nel capitalismo municipale, perché si scopre, diversamente da quant'è la vulgata popolare, che ci sono aziende che fanno promozione della cultura, dello sport, gestiscono casinò, attività commerciali, attività di promozione varie. Cioè, no, noi abbiamo in mente il mondo delle utility, ma è soltanto una piccola parte. La galassia del capitalismo municipale ha dentro veramente una varietà. Per esempio, le cose più assurde che avete censito in questo libro? Beh, a me il casinò è quello che è rimasto più... Casinò Venezia. Esatto, sì, mi sembra francamente l'attività, un'attività che non dovrebbe rientrare nell'ambito di competenze del comune. Quindi che fare, immagino lei dica, che fare? Che fare, appunto. No, perché un altro dato che io ho letto anche ieri sulla stampa, è vero che gli stipendi di tutte queste circa 7.000 imprese pagano 13 miliardi di euro l'anno, stipendi che, ripeto, ci sono anche persone che guadagnano il loro stipendio onestamente, la maggior parte in queste imprese. 13 miliardi, questa è la cifra? Sì, le confermo la cifra. Ma più generalmente dai nostri conti, anche da quelli della Confindustria che abbiamo verificato, ci torna l'idea che siano più di 20 miliardi di risorse pubbliche che vengono destinate per tenere in piedi queste aziende. 20 miliardi all'anno. Attenzione, all'interno di questi 20 miliardi ci sono anche i servizi, cioè il costo dei servizi di interesse generale, ad esempio i trasporti pubblici locali assorbono una fetta molto considerevole di questo trasferimento. Però, ad esempio, il costo degli organi, cioè gli organi sociali di queste partecipazioni costano 2,5 miliardi all'anno. Sì, i consigli di amministrazione. 5.000 poltrone. Allora, dobbiamo interrogarci su questo punto fondamentale, secondo me. Che senso ha organizzare in forma di impresa un servizio pubblico in perdita? Questa è la domanda che rivolgo a... Visto che poi essendo in perdita, essendo pubblico, insomma, vogliamo capire la domanda successiva, a chi vanno le perdite, in capo a chi vanno le perdite, indovinate un po' cari ascoltatori, in capo a chi... Vabbè. Quindi la soluzione è chi perde dovrebbe essere chiuso, però voglio dire, siccome ci sono alcuni servizi... Deve essere chiuso. No, certo, però... Allora, il problema è che la dismissione forzata è già stata tentata dal governo Monti. Sì. E qui casca l'asino, perché cosa è successo? Che questa operazione un po' di forzatura che ha tentato il governo Monti si è scontrata, ahimè, con una sentenza della Corte Costituzionale che diceva, accogliendo il ricorso, credo, della Regione Piemonte e di un'altra che francamente non mi ricordo, diceva, bene, tu governo centrale non puoi intervenire perché questa è materia concorrente. È chiaro, c'è sempre un ricorso. Secondo suggerimento a Renzi, posso ancora da professore, sì? Già che si ritocca il titolo quinto, già che se lo in qualche direzione lo viene ritoccato, ritocchiamo anche questo, cioè nel momento in cui abbiamo un federalismo fiscale che non funziona, in cui c'è libertà ma non responsabilità nella gestione di queste aziende, allora rivediamo, facciamo in modo che questo rischio non ci sia. Basta ricorsi. Dell'effetto pantalone, sì, sulle perdite di queste aziende. No, ma anche perché altrimenti con questa tipologia di ricorsi, che per carità sono previsti dalla legge, siamo sempre così, l'Italia poi immobile che non produce nulla di nuovo. Staremo a vedere. Calerà la mannaia e che tipo di mannaia? I due consigli del professor Bortolotti noi li giriamo a Renzi se siamo ancora in tempo per la formalizzazione finale del DEF. La ringrazio professor Bernardo Bortolotti, voglio ricordare il libro è Comuni S.P.A. il capitalismo municipale in Italia, scritto da lei e altri colleghi, edito dal Mulino, per capire come orientarsi in questa giungla delle municipalizzate, circa 7.000 in Italia. Ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi in redazione. Vi diamo appuntamento a domani, c'è sempre il nostro Alpino in regia, il nostro Peter Bescapè. Seguiteci anche su Twitter, Alino Milan, quello è il mio profilo. A domani.